Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Risentiremo l'urlo di Tarzan in questa puntata di Mebius. Benvenuti e ascoltiamo insieme i titoli allora. Anche la Siemens collaborerà al progetto Enea del solare termodinamico, una tecnologia avanzata che con l'apporto dell'azienda tedesca collocherà il nostro paese al primo posto in questo settore. Nelle comunità di batteri, se una tribù vuole prevalere sulle altre, le cose vanno male per tutti. Una ricerca italo-belga dimostra che anche fra i batteri la democrazia è vincente. L'evoluzionismo sul grande schermo. Come il cinema ha affrontato e rappresentato il darwinismo. Un libro racconta questa storia che inizia con l'urlo di Tarzan. Come mettere insieme Frank Sinatra, Galileo Galilei, Giuseppe Ungaretti e lo sbarco sulla Luna del 1969. Ci riesce una bella mostra dedicata al nostro satellite. Tanto virtuale che si può toccare. Così promette di essere il museo egizio progettato dalla scuola di robotica Sant'Anna a Pisa. A distanza di qualche mese dal premio Nobel, parliamo con maggiore distacco del mancato riconoscimento al fisico italiano Nicola Cabibbo. E la polemica comunque continua. OGM per il terzo mondo. L'obiettivo è rendere commestibili importanti risorse che ora non lo sono. Ma prima di Tarzan, come vi dicevo in apertura, Barbara Galavotti ci racconta di un'importante iniziativa nel campo dell'energia. È stata annunciata questa settimana e vede coinvolte due grandi aziende. Sentiamo. La Siemens guarda la tecnologia italiana e acquisisce il 28% delle quote azionarie di Archimede Solar Energy, la società del gruppo Angelantoni specializzata nel solare termodinamico. In effetti può sembrare una notizia che con la scienza ha poco a che fare. Invece c'entra molto, tanto che l'annuncio è stato dato martedì scorso presso la sede centrale dell'Enea a Roma. Proviamo ad andare con ordine. L'Archimede Solar Energy è l'unico produttore al mondo di tubi ricevitori solari a sali fusi, un nome complesso che indica sostanzialmente le componenti fondamentali di un tipo di centrali solari sviluppate proprio dai ricercatori Enea. Sono chiamate tecnicamente centrali solari termodinamiche e la versione messa a punto dall'Enea si basa su una intuizione del premio Nobel Carlo Rubbia. Ecco come funziona. L'energia solare viene raccolta e concentrata da specchi parabolici e poi utilizzata per scaldare una miscela di sali fusi. I sali possono accumulare calore fino a raggiungere la temperatura di 550 gradi. Quando sono roventi, vengono utilizzati per produrre vapore, il quale a sua volta serve per far girare delle turbine che generano elettricità. Un modello simile di centrali funziona scaldando uno speciale olio. L'idea innovativa, però, è stata proprio quella di utilizzare il calore del sole per scaldare una miscela di sali. I vantaggi sono molti. Fra l'altro, i sali non sono infiammabili e dunque possono raggiungere temperature maggiori di quelle degli oli. Inoltre non sono inquinanti e quindi non presentano problemi di smaltimento. Sulla carta funziona tutto perfettamente. Funziona anche in pratica? Attualmente in Sicilia, a Priolo, e nell'Edenea stanno collaborando alla costruzione di un piccolo impianto che produrrà 5 MW e che servirà un po' da prova per vedere se effettivamente ogni cosa va come deve andare. Luigi Paganetto, presidente dell'Enea, ci dice a che punto sono i lavori. Questo impianto oggi sta cominciando ad essere realizzato e io mi auguro che nel giro di un anno e mezzo, ma questi sono i tempi previsti, divenga operativo. Sarebbe molto importante che questo avvenisse perché significherebbe avere un impianto realizzato di solare che è la condizione per poi poter convincere molti paesi che sono interessati al solare a realizzarne di simili nel Mediterraneo. Nel Mediterraneo dunque, ma si è detto l'Enea anche in India o in Cina. In effetti con questa tecnologia l'Italia mira ad assicurare un ruolo di guida mondiale nelle tecnologie per il solare. In questo senso l'accordo con Siemens è strategico, perché dovrebbe consentire di passare dalla produzione di 6.000 tubi ricevitori solari prevista per il 2009 a 100.000 tubi all'anno dal 2011. La prima centrale da 30 MW dovrebbe presto sorgere nel Lazio, grazie a un accordo con Confindustria Lazio. Naturalmente i problemi non mancano. Come sempre, quando si tratta di rinnovabili, occorre migliorare la resa. In sostanza, bisogna rendere più efficienti i sistemi di produzione di energia, altrimenti, a conti fatti, l'intera operazione non è abbastanza conveniente. Ovviamente però è proprio su questo punto che diviene essenziale la collaborazione fra ricerca e imprese disposte ad innovare. Al Gore ha detto più o meno: la cattiva notizia è che non possiamo fare a meno di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Quella buona è che ciò comporta una straordinaria occasione di sviluppo. A quanto potrà arrivare la produzione di energie rinnovabili in Italia? Oggi circa il 6% dell'energia consumata in Italia viene da fonti rinnovabili, soprattutto idroelettrico. Secondo quanto ci ha detto Michele Tedeschi, presidente della Siemens Italia, nei prossimi anni si potrebbe passare all'11%, cioè quasi raddoppiare, grazie all'incremento nella produzione di energia dall'eolico e dal solare. E il nucleare? Rinnovabile e nucleare sono strategie alternative o complementari? Ecco cosa ci ha risposto Gianluigi Angelantoni, presidente dell'Archimede Solar Energy, dunque il punto di vista di un imprenditore. Io mi auguro e spero che possano essere presto complementari. Certamente l'energia del futuro sarà un mix, un cocktail di energia. Francamente, come imprenditore, ma anche come cittadino, devo dire che il nucleare forse attuale non è ancora il giusto mix, a mio avviso, con le energie rinnovabili. Quello di cui si parla tanto della quarta generazione, che ridurrà drasticamente la quantità di scorie, non al 70-80% come ora, ma al 10-15%, oppure l'uso futuro ipotizzato dal professor Rubbia, ma anche dagli indiani attualmente, del torio, che è il sostitutivo dell'uranio, potrebbe essere un valido contributo a risolvere i problemi energetici globali in abbinamento appunto a quello che sono le energie rinnovabili. In più testi di biologia si ricorda che nel nostro corpo, voglio essere più preciso, in un solo individuo della nostra specie, alberga un numero di batteri che supera i 6 miliardi, ovvero tutta la specie umana sul pianeta. Bene, Maurizio Melis vi spiega ora come in questa immensa popolazione sembra che la democrazia sia un comportamento vantaggioso. I batteri preferiscono la democrazia. Beh, insomma, è una notizia confortante, un buon punto di partenza, diciamo così. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che nelle comunità microbiche l'equilibrio tra le diverse specie di batteri che popolano la comunità, che in natura sono centinaia o migliaia, ebbene questo equilibrio garantisce una maggiore salvaguardia del sistema, una migliore capacità di reagire ai cambiamenti stressanti. Insomma, come dire, multietnico è meglio, almeno per i batteri vale così. La strana notizia pubblicata a inizio mese su Nature porta la firma anche di un italiano, Daniele D'Affonchio, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche dell'Università di Milano. D'Affonchio è in linea con noi. Buonasera, D'Affonchio. Buonasera. Ecco, dunque, la prima cosa che le chiederei è, ci spieghi un po' come si è svolto questo strano esperimento. Da che cosa partivate? Da un brodo di microbi? Ci faccia capire. Sì, siamo partiti da delle comunità microbiche molto semplificate e costruite da noi in piccolissimi volumi, fatte da 18 specie di batteri capaci di fare un certo tipo di metabolismo. Abbiamo voluto guardare come reagivano queste comunità microbiche agli stress in funzione della distribuzione degli individui tra le 18 specie. Ecco, la comunità microbica è una comunità fatta da tante specie, è come se fosse l'Europa. L'Europa è fatta da tanti stati, però questi stati hanno una popolazione molto diversa. Per esempio la Germania ha 80 milioni di persone circa, l'Italia ne ha 60 milioni, ma ci sono paesi come il Principato di Monaco, il Lussemburgo, il Belgio, che hanno molti meno abitanti. Ecco, facciamo adesso un tuffo in questo micromondo. Io le chiedo soprattutto di spiegarci che cosa succede quando arriva la batosta. Abbiamo detto che c'è un brodo di microbi che insomma se ne vanno un po' ognuno per i fatti suoi. Che cosa accade? Esatto, noi abbiamo sottoposto a stress queste comunità microbiche e lo stress che abbiamo utilizzato è la salinità, cioè il sale che crea dei problemi ovviamente ad alcune, certo, di queste specie. E che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che quando il sale viene aggiunto, solo alcune di queste specie ovviamente ne risentono e non riescono più a lavorare. Tuttavia, quando se la dominanza, se la specie più abbondante è una specie che è resistente al sale, questa riesce a sopravvivere. Però se la specie dominante è una specie che è sensibile al sale, la comunità microbica intera non riesce più a funzionare. Viceversa, quando tutte le specie sono equalmente rappresentate, in una sorta appunto di democrazia, sono tutte rappresentate dallo stesso numero di individui, se il sale arriva influenzerà negativamente le specie sensibili, ma quelle altre sono ancora in numero sufficientemente abbondante per continuare a lavorare proficuamente, quindi la funzionalità della comunità microbica è mantenuta. Le comunità microbiche, come dicevamo, sono presenti in natura, sono qualcosa che stiamo cercando di imparare a maneggiare bene perché potrebbero avere molte applicazioni anche nella produzione di energia, per esempio. Ecco, quindi aver capito questo elemento, avere questa chiave di lettura in più è importante a fini anche pratici. Certo, per esempio il nostro corpo, il corpo umano, è fatto da molte più cellule batteriche che non da cellule umane. Certo, è noto, sì, è una cosa venuta fuori anche di recente. Esatto, no? Nel nostro intestino, diciamo tutto il tubo digerente, albergano tantissimi batteri. Siamo un superorganismo. Esatto, siamo di fatto una comunità noi, non siamo solo uomini. Questi organismi, questi microorganismi che abbiamo nell'intestino sono molto importanti per la nostra salute, certo, no? Sono come un ennesimo organo del nostro corpo. Allora, quando noi vogliamo cambiare, vogliamo stare meglio, per esempio, se siamo sotto stress o abbiamo avuto delle operazioni o abbiamo ingerito qualcosa di sbagliato, una delle strategie è quello di mangiare questi microorganismi, ma uno dei problemi è che quando noi li mangiamo, quelli utili, microorganismi probiotici, questi si squilibrano. Entrano in competizione con quelli già presenti, esatto, nell'organismo. Esatto, non riescono quindi a insediarsi. E tutto l'insediamento di questi degli organismi che noi agendiamo è determinato dai rapporti tra le abbondanze relative delle specie. Quindi questo, un'applicazione, come dire, abbastanza immediata per la salute. E poi ce ne sono altre, come per esempio gli organismi vengono utilizzati attualmente in agricoltura biologica, dall'altro lato c'è la purificazione delle acque, sono veramente tanti quindi gli ambiti in cui sarà possibile applicare questa ricerca. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ed ora, come sempre, siamo al nostro gioco, il quiz. Dunque, oggi vi tocca l'elicottero. È facile pensare che si alzi in volo usando la rotazione delle pale, ma come fa a muoversi in avanti? Tre possibili risposte, come sempre. La prima è la piccola elica che sta dietro, sulla coda, che fornisce la spinta. Ci scriverete coda. Seconda possibilità. Guardate un elicottero in volo, vedrete che il suo rotore, ovvero le grandi pale che ha sulla testa, sono leggermente inclinate verso il muso dell'elicottero. È questa inclinazione che produce una forza di spinta in avanti. Ci scriverete inclinate. Terza e ultima possibilità, le grandi pale sono mobili, ruotano su se stesse, per salire stanno ferme, per andare avanti si mettono a ruotare, ci scriverete ruotare. Come sempre scriverete al numero di SMS 349-238-6666, il libro che si vince questa settimana è Evolution, Darwin e il cinema di Elena Canadelli e Stefano Locati, editore Le Mani, e di questo libro parleremo fra poco. In collaborazione con IBS.it. Sul grande schermo le teorie darwiniste, frullate in mille modi diversi, è proprio il caso di usare questa definizione, sono apparse tante volte. Ora Chiara Albicocco vi parla del libro che abbiamo messo in premio al nostro quiz, che racconta appunto questa storia. Però il servizio non poteva che iniziare con quella voce che nel modo più esplicito forse rappresenta questo tema. Che cos'è? Jim. Guarda! Una bianca! Salve! Ben trovato! Vieni giù! Briano, parlagli un po' tu! Cugiava! Non vi capisce! Prova un altro dialetto! Abdullah! Arrivare, Michele! E non altro parola! Scendi! Vieni giù da lì o ti sparo! Non sa neanche cos'è un fucile. Quello che abbiamo appena ascoltato era uno stralcio del film cult Tarzan l'uomo scimmia. Ecco, il primo della serie è uscito nel 1932 per la regia di Van Dyck e noi abbiamo ascoltato proprio il momento in cui Jane incontra per la prima volta l'uomo scimmia. L'uomo deriva dalla scimmia, quindi, sembra dirci la trama di questo film. E ecco che le teorie evoluzionistiche di Darwin invadono anche il mondo del cinema, da subito per giunta. Di questo rapporto fra il celebre naturalista che quest'anno compie proprio i 200 anni della nascita e il cinema parla un libro appena uscito nelle librerie per la casa editrice Le Mani e si intitola Evolution, Darwin e il cinema. È qui con noi questa sera uno degli autori, Stefano Locati. Intanto buonasera Locati. Buonasera. Lei è l'autore, dobbiamo specificare che l'altra autrice è Elena Canadelli, che ha curato la parte di letteratura e delle altre arti visive, invece lei, Locati, si è occupato della parte più cinematografica, diciamo così, è corretto? Esattamente. E dunque ci racconti, fin dall'inizio le teorie di Darwin hanno influenzato tutte le arti, compreso il cinema. Esatto, sì. Praticamente l'idea che c'era alla base della nostra ricerca era quella di far vedere come un'idea scientifica potesse influenzare il contesto culturale. Quindi chiaramente all'epoca di Darwin il cinema ancora non era nato e le sue idee si diffusero soprattutto in letteratura, nella pittura, nelle sculture e poi più in generale nel contesto culturale dell'epoca, sulle riviste specialistiche o meno. E poi ovviamente anche nel cinema. E poi ovviamente si arriva al cinema, perché appunto un medium così capace di confrontarsi con l'immaginario popolare non poteva che essere colpito dalla portata della rivoluzione darwiniana. Darwin è un film emblematico perché riesce a raccogliere perfettamente il passaggio epocale che risiedeva appunto nelle teorie di Darwin, perché non guarda più all'uomo come qualcosa separato dal resto del mondo animale, ma come qualcosa di integrato con esso. Quindi c'è tutta una serie di l'uomo film. Deriva dalla scimmia, sembra dirci proprio Tarzan. Sì, in qualche modo sì, che era un po' una volgarizzazione di quello che Darwin diceva, nel senso che appunto che l'uomo derivi dalla scimmia è un po' la vulgata del pensiero darwiniano. Sì. Nel senso che Darwin chiaramente diceva che l'uomo aveva un antenato comune alle comuni scimmie che noi oggi vediamo. Però appunto nella vulgata era passato che che l'uomo discendesse direttamente dalle scimmie. E anche Darwin, ovviamente. Anche Darwin, sì. Quindi praticamente c'è tutta una serie di film, già prima di questo Tarzan del 32 c'erano state altre riduzioni all'epoca del cinema muto di Tarzan, ma anche con altri film che guardavano alla scimmia come un parente diretto dell'uomo. C'è ad esempio un film del 1908, un cortometraggio appunto muto, che si chiama Darwin's Reversion. Addirittura, quindi fin da subito, dai primordi del cinema. Esattamente, sì. C'erano tutti di questi film che prendevano un po', da un lato, in giro la teoria darwiniana, dall'altro però la confermavano in qualche modo confrontandosi con essa. In questo film appunto che dicevo c'è uno scienziato che sta sperimentando sulla teoria dell'evoluzione e in qualche modo fa regredire gli uomini a delle scimmie. Poi il filmato si conclude con questi uomini regrediti a scimmia che sono esposti in una specie di circo Barnum delle mostruosità. In realtà nel cinema sono tanti i riferimenti che si fanno, i rapporti tra uomo e scimmia, mi viene in mente King Kong e chi più ne ha più ne metta, insomma. Sì, sì, sì, specialmente dopo gli anni 20, perché nel 1925 c'era stato un processo nel Tennessee, in America, contro un professore di una scuola superiore che insegnava l'evoluzione a scuola. Nel Tennessee era appena stata approvata una legge che vietava l'insegnamento della teoria evoluzionistica e quindi questo processo che si tenne contro questo professore ebbe una grande risonanza in tutto il paese, tanto più che fu l'occasione in cui venne messo a punto il primo network che copriva tutto il territorio nazionale dal punto di vista delle radio proprio. E fu seguitissimo e in seguito a quello che venne poi chiamato il Monkey Trial, il processo delle scimmie. Perché in seguito a quello si continuò a parlare ancora di più paradossalmente dell'evoluzionismo e anche al cinema ci fu un fiorire di tutti questi film che si occupavano proprio del rapporto con le scimmie. Non era tanto l'uomo che riscopre la natura come poteva essere col libro della giungla, con Mowgli, che appunto era stato allevato dai lupi, ma era proprio riscoprire un rapporto con il nostro parente parente più diretto, quello che era diventato appunto il nostro parente più diretto. Quindi sì, non solo Tarzan, ma King Kong, poi ci sono anche tanti altri esempi. C'è un film del 1932, Il Dottor Miracolo, che è ispirato molto vagamente a un racconto di Edgar Allan Poe, dell'omicidio della Rue Morgue, in cui uno scienziato un po' sui generis, di quelli un po' che... scienziati pazzi, come esatto, nello stereotipo. Esatto, vuole dimostrare che la nostra ascendenza, mescolando il sangue delle scimmie con quello umano, quindi rapisce le solite giovani fanciulle in pericolo, sì, eccetera, e cerca di iniettare questo sangue di scimmia che lui si porta dietro, per dimostrare appunto praticamente come le scimmie siano nostri parenti, e quindi come se fossero della stessa specie. Esatto. Ecco, lei ci ha inviato un altro spezzone tratto dal film Il mostro della Laguna Nera, i più specializzati lo conosceranno, del 1954, di cui voi parlate anche nel libro. Ecco, qui si tocca un altro aspetto delle teorie darwiniane, non più l'origine della specie umana, ma bensì l'origine del tutto. La visione religiosa questa volta si sovrappone un po' con le teorie evoluzionistiche. Allora, prima ascoltiamolo e poi lo commentiamo insieme. Nel principio Dio creò il cielo e la terra era informe e vuota. Questo è il pianeta Terra appena nato e che andò raffreddandosi via via da una temperatura di 6.000 gradi a una di poche centinaia in 5 miliardi di anni. Il calore, irradiandosi nell'atmosfera, formò le nubi e la pioggia cadde sulla crosta indurita per secoli e secoli. I mari irrequieti crebbero, ma trovarono dei limiti e furono racchiusi. Ed ecco che nei loro caldi recessi comincia il miracolo della vita. In varietà innumerevoli appaiono esseri viventi che mutano e raggiungono la terraferma, lasciando una prova del loro passaggio, della loro lotta per l'esistenza, della loro estinzione. Ecco Locati, questo era proprio l'incipit del film Il mostro della Laguna Nera, che nelle prime parole coincide proprio con l'inizio della Genesi. Ecco, poi si prosegue con una sequenza di eventi, dalla nascita della vita alla conquista dei primi organismi delle terre emerse. Quindi attraverso le ere geologiche, la selezione naturale, come Darwin ci ha insegnato, anche il cinema si trova ad affrontare l'antitesi tra quello che è il disegno divino e quella che invece è la spiegazione della scienza. Sì, il mostro della Laguna Nera è proprio simbolico da questo punto di vista del clima che si respirava un po' nel cinema di quell'epoca, nel senso che faceva vedere proprio come le storie nascessero da un mix proprio tra religione, credenze, anche credenze popolari, e un discorso più strettamente scientifico, tanto più che la voce narrante assume i toni del documentario scientifico. Il mostro della Laguna Nera è un film horror e mette a confronto una specie antecedente all'uomo, ma umanoide e dall'intelligenza equiparabile a quella umana, con l'uomo stesso. Un gruppo di scienziati si ritrova sul Rio delle Amazzoni in Brasile e scopre questa specie sconosciuta e viene a confrontarsi con essa. La particolarità è appunto far vedere come, prima di tutto, l'uomo non sia l'unica specie intelligente come si credeva e come si continua a credere tuttora. Sì. E poi far vedere come l'evoluzione possa creare altra vita, altre specie intelligenti, perché una particolarità del cinema è non solo il confronto, come abbiamo visto prima, con Tarzan e con tutti i film sul passato, ma è anche fare ipotesi, chiaramente non confermabili, perché l'evoluzione non è prevedibile, però fare ipotesi su quello che potrebbe essere uno sviluppo dell'uomo, una sua evoluzione futura. Quindi entrano in gioco non solo il confronto con le scimmie, ma l'evoluzione dell'uomo e le sue possibili mutazioni per cause che possono essere nel cinema, intendo le più disparate, dalle radiazioni a una guerra nucleare a qualsiasi altra causa balzana che possa venire in mente. E qui le produzioni cinematografiche si sprecano, diciamo. Sì, sono sbizzarrite in molti sensi. Ecco, a questo proposito non possiamo non far riferimento a quello che è uno dei film cult, dove si reinterpreta, dove si rappresenta attraverso numerosissime metafore l'evoluzione dell'uomo, che è 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, che sentiamo in sottofondo la colonna sonora. E io su queste note e su questo bagno di cinema e scienza la saluto, Stefano, e ricordo il titolo del libro, Evolution, Darwin e il cinema, edizione Le Mani. nella sua sezione delle rassegne storiche si potrà anche vedere 2001 Odissea nello spazio, la cui colonna sonora abbiamo appena ascoltato. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di Vedere la scienza, la rassegna che, come ogni anno, e siamo alla 12ª edizione, propone una selezione delle migliori produzioni video e cinematografiche che hanno come tema la scienza e i contenuti scientifici. La rassegna si svolge a Milano a partire da lunedì prossimo per tutta la settimana. Il programma è molto vasto, non meno di un'ottantina di proiezioni tra fiction e documentari. C'è un tema centrale che è quello dell'astronomia, perché il 2009, come vi abbiamo detto più volte, è l'anno UNESCO dell'astronomia, però vedo molte altre aree, dalle neuroscienze alla matematica, alla robotica, i cambiamenti climatici. C'è anche una sezione speciale dedicata ai rifiuti e all'educazione ambientale. Se cercate in rete Vedere la scienza 2009 trovate tutto il programma. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Questo 2009, che finisce per 9, è proprio un condensatore di anniversari, e questi finiscono per zero, gli anniversari, notoriamente. 400 anni dalle prime osservazioni di Galileo con il suo telescopio, ma anche 40 anni dal primo piede umano su un suolo non terrestre. Il 20 luglio del 1969 Neil Armstrong e Buzz Aldrin, mentre il loro collega Michael Collins li controllava standosene in orbita intorno alla Luna, scendevano sul suolo lunare. Una bella mostra organizzata dall'Osservatorio Astronomico di Brera in collaborazione con la Biblioteca Braidense, siamo a Milano, una bella mostra riunisce tanti aspetti della relazione che da tanti anni abbiamo con il nostro satellite, la Luna. Da quelli più semplici e più diffusi, fly me to the moon, let me play among the stars. Nelle magnifiche sale seicentesche della Braidense risuona anche questo famoso brano cantato da Frank Sinatra. Oppure guarda che luna, guarda che mare. Il nostro Fred Buscaglione con la sua indimenticabile Guarda che luna, che fra l'altro è il titolo della mostra. E qui ricordo le curatrici Agnese Mandrino e Anna Maria Lombardi. Si viaggia nel tempo rapidamente e l'effetto è notevole. C'è stato un recital alla mostra di brani lunari, passatemi questa definizione, curati da Stefano Sandrelli, Annick Raimondi e Maria Eugenia D'Aquino, con gli attori e attrici di Pacta dei Teatri. Sentite questo passaggio di una lettera che Galileo Galilei invia ad Antonio de Medici per comunicargli che sta usando un nuovo strumento, il cannocchiale. Vostra Signoria Illustrissima Antonio de Medici, ho potuto vedere come assai da vicino la faccia della Luna, essendo che ho adoperato un occhiale il quale me la rappresenta di diametro 20 volte maggiore di quello che apparisce con l'occhio naturale, onde la sua superficie viene veduta 400 volte maggiore di quello che ordinariamente dimostra. Era la voce di Marino Campanaro che ci riportava 400 anni fa. Sono passati tanti anni, ma questo è un documento di cronaca. E alla mostra si può ascoltare un altro documento che viene 400 anni dopo. Sono gli ultimi secondi che separano Armstrong e Aldrin dal suolo lunare, i dialoghi fra loro e il centro di Houston. Houston, ho qualche fluttuazione nel circuito della corrente continua. Roger, stand by. Tenetevi pronti, ci sembra tutto bene. Looking good to us. You're still looking good. Houston, you're looking at our delta H. That's affirmative. 6 plus 2. 6 più 2,5, rallentare. 6 più 2,5, rallentare. Fammi provare con l'automatico ora. Vediamo cosa succede. Eagle a Houston, ci mancano dei dati. Abbiamo il via per quell'allarme. Atterraggio autorizzato. Ricevuto, abbiamo buoni dati. Li abbiamo ora, sembra tutto a posto. 4 avanti, spostando di un pochino verso destra. Stiamo sollevando un po' di polvere. C'è un paio di grossi massi rotondeggianti. Vieni avanti, qui c'è un punto buono. Non male, ecco l'ombra. Ci stiamo atterrando. Tenetevi pronti per l'impatto. Pronti? Houston, qui base mare della tranquillità. Eagle atterrato. Quando il modulo Eagle si posò sulla Luna, i due astronauti aspettarono qualche ora prima di uscire dal modulo stesso. Anzi, il programma aveva addirittura previsto che dovessero riposare, dormire per 5 ore, e infatti le dirette televisive di quella notte fra domenica e lunedì del 20 luglio 1969 avevano previsto una lunga sosta. Poi Armstrong e Aldrin comunicarono dopo 2 ore che non riuscivano a dormire e che avevano deciso di mettere subito piede sulla Luna. Un illustre spettatore di quella notte televisiva fu il nostro poeta Giuseppe Ungaretti, davanti al televisore di casa sua insieme al suo segretario e a Giovanni Grazzini, giornalista del Corriere della Sera, che il giorno dopo scrisse un articolo su quella serata con il poeta. Ecco un passaggio di quell'articolo recitato da Marino Campanaro e Maria Eugenia D'Aquino. Nella debole luce riflessa dal teleschermo, il volto immobile di Ungaretti è una maschera misteriosa. Sono le 22:10 di domenica 20 luglio. Il ragno degli astronauti sta scendendo sulla Luna. 40.000 piedi, 30.000. Vai che è una meraviglia, dice la base di Houston. Vai piano, 20.000. 70 piedi, 5 piedi, sì, piano ancora, toccato. Sono le 22:17. E adesso che fanno? La voce del vecchio poeta si alza sul clamore che scuote la camera. Dormono, risponde il segretario. Il programma è che ora debbono dormire. Ma non è possibile che riescano a dormire proprio adesso, a meno che non gli venga ordinato di prendere un sonnifero. Bisogna pensare che questi uomini si sono preparati a questa impresa in ogni senso. Hanno imparato a controllarsi con assoluta freddezza. Se non avessero raggiunto questo controllo, non sarebbero neppure partiti. È proprio questo che mi sconvolge. Questo dominio del sentimento, questa obbedienza ad una volontà che non era la loro, ma infine è diventata la loro, totalmente, fisicamente, al punto che possono persino dormire adesso, adesso con la Luna sotto i piedi. Hanno obbedito agli ordini. Ulisse non sarebbe tornato indietro. Ulisse si è fatto legare all'albero della nave per ascoltare il canto delle sirene. Anche lui ha usato una violenza contro se stesso. Ha fatto legare l'uomo fragile, l'uomo che avrebbe perduto. Questa è saggezza. È saggezza. I suoi occhi azzurri scintillano di una lieve malizia, certamente. Ma allora diciamo che questa è la vera vittoria, non tanto di essere arrivati sulla Luna, quanto di esserci arrivati così, padroni di se stessi, capaci di una sovrumana indifferenza. Fu complessa, merita ricordarlo, la relazione fra i poeti, gli artisti in genere e la spedizione lunare del 1969. In conclusione, Agnese Mandrino ci riassume i documenti storici che appaiono nella mostra e un'ulteriore chiave di lettura di questo lungo, millenario nostro discorso con la Luna che, ricordiamolo, è pur sempre una signora. Abbiamo scelto un taglio abbastanza particolare. Innanzitutto scegliere pochi libri che parlassero della Luna, ma scegliere i libri più belli, più suggestivi, più affascinanti, più ricchi di immagini. Ecco, però c'è sottotraccia anche un altro tema, che è quello della donna e la Luna. Sì, sì, certo. Il tema che ci ha guidato in questa mostra è stato naturalmente la Luna. Non poteva essere diverso se si pensa che le illustrazioni più belle, forse non più importanti, ma più belle, nel Sidereus Nuncius di Galileo Galilei sono quelle della Luna, ma naturalmente la Luna è la donna del cielo, è la signora del cielo, la figura femminile per eccellenza, e abbiamo pensato di accompagnarla con altre figure femminili del cielo, con tutte quelle che siamo riusciti a trovare, appunto a partire dalla musa dell'astronomia per finire, che so, alla costellazione della Vergine oppure all'immagine bellissima della prima donna raffigurata in un atteggiamento osservativo. Lo avete sentito nei titoli, tanto virtuale che si può toccare, una tecnologia digitale messa a punto dai team di robotica della Scuola Sant'Anna di Pisa riesce a darci un assetto museale che ha un'estrema concretezza, pur essendo virtuale. Ve ne parla Chiara Albicocco. Robotica e realtà virtuale si uniscono per farci compiere un viaggio nel tempo, nell'antico Egitto. Pochi giorni fa è stato presentato il progetto di un museo virtuale che permette al visitatore di toccare antichi reperti, conservati nei musei di tutto il mondo. Cioè, se io mi trovassi a Pisa, al Museo delle Collezioni Egittologiche, e volessi toccare o studiare un reperto che invece si trova in Egitto, ecco, mi basterebbe infilare il casco che mi mette nella realtà virtuale e il gioco è fatto. È corretto, Bergamasco? Più o meno? Sì. Sì, esattamente. Una delle possibilità è proprio quella di utilizzare dei visori immersivi come il casco oppure, ad esempio, altri sistemi di visualizzazione immersivi però posizionati all'interno di un museo. Sì. Ecco, è qui con noi Massimo Bergamasco, che è il direttore del laboratorio Percro della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ha progettato e realizzato questo tipo di museo virtuale. Ecco, ci racconti tutto, Bergamasco. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero dell'Università e riguarda operazioni di rilievo in 3 siti archeologici, 2 in Egitto e un altro in Oman. Il nostro apporto a livello di tecnologia è stato quello di poter andare a fare dei rilievi, seguire dei rilievi su oggetti che sono stati rinvenuti appunto in questi scavi e poterli rendere fruibili in, ad esempio, nel Museo delle Collezioni Egittologiche di Pisa, a distanza, quindi di migliaia di chilometri. Sì. L'originale naturalmente rimane a livello dello scavo, però è possibile per un visitatore del museo poterne apprezzare anche in termini non solo di forma e di consistenza, ma anche appunto la visibilità dell'oggetto tramite questi sistemi di interfaccia che ne consentono l'esplorazione tattile. E quali sono le potenzialità di uno strumento così tecnologicamente avanzato? Beh, sono innumerevoli. Il campo dell'archeologia è solo uno dei campi possibili di applicazioni. Naturalmente queste tecnologie vengono utilizzate attualmente anche dal nostro laboratorio anche per problemi di didattica, ad esempio in ambito medico e chirurgico. C'è la possibilità quindi di trasmettere l'azione a distanza e fare in modo che l'operatore che indossa questi sistemi abbia la possibilità di gestire il contatto con oggetti che sono posizionati geograficamente a distanza. Ecco, la parte di realtà virtuale ci permette di immergerci completamente a 360 gradi nel reperto che appunto è virtuale. Invece la parte di robotica? La parte di robotica è proprio la parte relativa al sistema robotico che consente l'interazione fisica tra il visitatore e l'oggetto. Affinché l'operatore, la persona, possa percepire il contatto con un oggetto virtuale, è necessario che disponga di questo sistema di interfaccia, che è un sistema robotico, che gli consente quindi di sentire le forze di contatto tra l'oggetto virtuale e la sua mano. La persona deve vestire questo sistema e percepisce quindi delle forze di contatto a livello della mano quando la mano virtuale, controllata dalla sua mano reale, entra in contatto con l'oggetto virtuale. Quindi è proprio possibile toccare i reperti. Ecco, allora mi viene in mente che potrebbe essere anche un ottimo strumento per i ricercatori, per gli archeologi che ci lavorano su questi reperti e che magari si trovano a migliaia di chilometri di distanza. Una delle possibilità è proprio quindi di esplorare oggetti a livello remoto. Ecco, e per di più mi viene in mente che i reperti non vengono danneggiati, giustamente, perché sono virtuali e quindi i rimaneggiamenti non producono, insomma, effetti negativi. Sì, effettivamente le tecnologie dei reperti virtuali possono avere un grande sviluppo futuro nell'ambito del restauro, ad esempio, di beni culturali. Come sa, non è sempre possibile, andare a toccare l'originale di oggetti che devono essere restaurati. È possibile quindi effettuare una ricostruzione virtuale prima di andare ad agire sui frammenti reali. La persona può eseguire un numero di prove praticamente illimitato senza dover andare ad agire direttamente sull'oggetto interessato. È complicato, è molto costoso costruire un museo o un progetto di questo genere? No, nel senso che ormai le tecnologie di visualizzazione sono ormai disponibili. La cosa interessante che è ancora a livello di ricerca è quello di poter rendere disponibile in tempo reale l'interazione tra l'uomo e l'oggetto. Naturalmente non si tratta qui solamente di visualizzare a livello tridimensionale l'oggetto o il sito archeologico, quanto quello di rendere accessibile alla persona l'interazione diretta, fisica, con l'oggetto. E questo naturalmente richiede lo sviluppo di particolari moduli software che non sono ancora a livello commerciale. Va bene, professor Bergamasco, allora buon lavoro e ricordiamo che tutto questo sarà anche possibile vederlo prima o poi su internet, è vero? Sì, una parte del progetto guardava l'attività del CNR di Roma che appunto aveva come obiettivo quello di rendere disponibili alla comunità web la visualizzazione di questi siti e di questi reperti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz, vi ricordate l'interrogativo, l'elicottero, che come faccia ad alzarsi può essere abbastanza intuitivo, ma come fa a muoversi in avanti? La risposta giusta era la seconda. Fate attenzione ai filmati in cui si vedono elicotteri e vedrete che quando si muovono in avanti il rotore è lievemente inclinato verso il muso. Per alzarsi da terra il rotore non si inclina. È vero, le singole pale hanno un movimento di rotazione su se stesse, ma non è un movimento continuo, si inclinano solo di poco e questa inclinazione serve ad avere una spinta verso l'alto quando si deve decollare, un'inclinazione nel verso opposto serve a diminuire la spinta e quindi l'elicottero quando è in volo inizia a scendere. Ma per muoversi in avanti bisogna che ci sia un'inclinazione di tutto il grande rotore. Pensate, per capirci, all'elica di un aereo, la sua rotazione è perpendicolare alla direzione del moto. Adesso pensate di inclinare progressivamente quest'elica. Continuerete ad avere una certa spinta in avanti, ma sempre meno intensa. Se aumentate l'angolo ancora di più avrete quell'inclinazione che hanno le pale di un elicottero. Se l'elicottero avesse un'elica piccola come quella di un aereo, bene, non si muoverebbe nemmeno probabilmente. Con un'elica molto più grande invece abbiamo una forza che può metterlo in moto. E l'elica che sta dietro nell'elicottero a che cosa serve, vi chiederete? Allora, se non ci fosse questa piccola elica, il movimento rotatorio, poniamo in senso orario, della grande elica che sta sopra, per leggi fisiche che sarebbe lungo descrivere ora, imprimerebbe alla carlinga una rotazione nell'altro senso. Insomma, l'elicottero diventerebbe una trottola. Era ottobre e ci tolsero un Nobel. Potrebbe essere questo il titolo di un saggio romanzo un po' tra il romantico e il futurista. Mi sto riferendo al premio Nobel 2008 per la fisica. Molti di voi che ci state ascoltando si ricorderanno, venne fuori una reazione abbastanza forte dagli ambienti scientifici italiani, ma non solo italiani, sul fatto che l'assegnazione del premio Nobel aveva lasciato fuori un importante personaggio italiano, Nicola Cabibbo, fisico teorico di primissimo livello, al quale si disse non era stata riconosciuta la portata delle sue ricerche. Per parlare di questa vicenda ho qui con me questa sera Decio Cocolicchio. Buonasera Cocolicchio. Buonasera. Docente di fisica teorica all'Università della Basilicata, che da parecchio tempo si occupa lei proprio di quell'area di ricerca interessata dal premio Nobel dato alla fisica proprio nel 2008. Al seminario annuale del Centro Matematico Princeton dell'Università Bocconi la scorsa settimana, e questo ormai è diventato un appuntamento importante, un classico per le riflessioni sulla scienza, le ha presentato una relazione intitolata La fisica teorica da Fermi a Cabibbo e ha affrontato questo problema del premio Nobel. Allora però mi pare che lei sostenga che non si può parlare, insomma, come dire, di un furto, di come venne così vissuto al momento. Adesso è passato un po' di tempo, possiamo analizzare con calma la cosa. Come stanno le cose, Cocolicchio? Beh, guardi, non solo in Italia, è stata accolta con amarezza l'esclusione del professor Cabibbo dalla terna dei premi Nobel per la fisica del 2008. La reazione riservata e distaccata di Cabibbo non deve farci pensare... Lui accettasse, diciamo, di buon grado la cosa? Sì, in realtà questa amarezza è abbastanza diffusa e questo premio dispiace che non sia stato riconosciuto anche al professor Cabibbo. Non altro, perché all'inizio degli anni 60 è stato proprio lui a... il primo a comprendere e ad insegnare a tutti noi che le transizioni, i decadimenti delle particelle note come adroni rispettavano quel criterio di universalità insito nella teoria di Fermi e potevano essere descritte tramite una sovrapposizione di correnti diverse. Uh-huh. Questa idea fu trasposta facilmente poi in seguito in un meccanismo noto come mescolamento dei quark. La sua intuizione, secondo me l'idea fondamentale, fu sviluppata ed estesa circa 10 anni dopo da 2 fisici giapponesi, Kobayashi e Maskawa, premiati nell'ottobre del 2008 con il premio Nobel per la fisica. Ma allora Cocolicchio, si è premiato giustamente quello che è arrivato dopo e non si è premiato il passo iniziale? Secondo me, allora, prima di tutto si tratta di un premio incompleto, perché la matrice che definisce i parametri di mescolamento dei quark è comunemente nota come matrice di Kabibo Kobayashi Maskawa, acronimo legato proprio ai nomi di Kabibo e dei due giapponesi Kobayashi e Maskawa. Questo fa comprendere che il pregio relativo della generalizzazione di Kobayashi Maskawa, il pregio è quello di giustificare la violazione di CP, consiste semplicemente in una generalizzazione di quella intuizione, secondo me fenomenale, di associare, di giustificare l'universalità delle interazioni deboli per mezzo di questa intuizione del mescolamento dei quark. Quindi la generalizzazione è stata premiata a scapito dell'intuizione, dell'idea fondamentale. Questa è una scelta del comitato di selezione, ma anche il comitato di selezione, faccio notare, nella motivazione scritta che è stata data, nelle 20 pagine di motivazione, cita ad esempio, ho fatto questa considerazione, che Bibbo praticamente lo stesso numero di volte dei due premiati giapponesi, quindi vuol dire che c'è sostanza. Sì, cioè questa amarezza rimane, cioè, quasi giustificata. Ecco, sì, e poi si può dire che l'intuizione non è un passaggio da poco nella ricerca scientifica, nelle grandi scoperte scientifiche. È un po' singolare che non sia stata riconosciuta come un suo. Questa è la sensazione che anch'io provo, che è condivisa, abbastanza condivisa. Non è qualcosa solo di sciovinistico, cioè qualcosa che è un dato. In realtà sì, anche a livello internazionale. Si è percepito questo, insomma, anche perché le dicevo, anche solo ricordare che la matrice dei parametri di mescolamento è nota come CKM, dove quella C sta per Kabibo. Dove C sta per la. Mi sembra però, Cocolicchio, che non stia finendo questa polemica. Sembrerebbe proprio di no, perché recentemente La polemica si è rinfocolata perché si è prestato attenzione alla paternità proprio dell'intuizione dell'intuizione di Kabibo. L'intuizione di Kabibo, sì, perché Murray Gell-Mann, qualche anno prima di Kabibo. Murray Gell-Mann è un fisico Gell-Mann importante, un premio Nobel degli anni 60. Del 1969, proprio uno dei promotori del modello al quark. Sì. Quindi, una persona sicuramente autorevole, in una nota a piedi pagina di un suo lavoro, cioè, suggeriva quasi, sembrerebbe che suggerisca l'idea del mixing tra i quark, o meglio tra le correnti, per essere più precise. Solo che si tratta di una nota a piedi pagina abbastanza buttata lì, un po' sfuggente. Sì, non è certo la teoria che ha sviluppato il professor Kabibo. Ho capito. Però questo ha creato nuova polemica. Perché si tenderebbe a sostenere che in fondo Kabibo non era poi nemmeno depositario di questa intuizione. Insomma. Si trattava di uno spunto, quello di Murray Gell-Mann, non era molto più di questo. Questo spunto, ritenere che questo spunto rappresenti la proposta del mixing tra i quark, mi sembra che sia un po', almeno questo è il mio parere, insomma, un po' decisamente eccessivo. Sì, troppo sbrigativo pensare che il contributo del professor Kabibo venga ridimensionato da una nota a piedi pagina. Esistono colture geneticamente modificate davvero adatte a venire incontro ai bisogni alimentari dei paesi più poveri? Sembrerebbe proprio di no. Ascoltate Barbara Galavotti. Qualche mese fa abbiamo parlato di colture geneticamente modificate con Roberto De Fez, genetista del CNR di Napoli, impegnato in diversi progetti di collaborazione con paesi in via di sviluppo. In quell'occasione facemmo un po' il punto degli OGM disponibili sul mercato. Scoprimmo che nessuno di essi poteva considerarsi veramente adatto a venire incontro ai bisogni del terzo mondo. E in effetti, per ovvie ragioni commerciali, le imprese produttrici di OGM hanno messo a punto le sementi economicamente più interessanti, cioè quelle adatte a soddisfare le necessità degli agricoltori del primo mondo. Ultimamente però ci sono stati diversi segnali di cambiamento, grazie agli sforzi congiunti di centri di ricerca, governi locali e organizzazioni senza fine di lucro. E qui con noi per riparlarne Roberto De Fez. Buonasera. Buonasera. Parliamo soprattutto di due colture, la cassava e il fagiolo dell'occhio. La cassava è un tubero coltivato in Africa, Asia e America Latina. Si calcola che fornisca l'alimentazione di base a oltre 1 miliardo di persone, per la stragrande maggioranza ovviamente persone povere. Ci racconta perché si sta pensando di farne una versione OGM? Perché perché appunto la cassava è un tubero che necessita di un'intensa lavorazione per poterlo rendere commestibile, altrimenti è un nutriente sì, ma estremamente tossico. E quindi sono stati avviati dei progetti tra la Nigeria, la Danimarca, l'Università dell'Ohio, con finanziamenti anche della Melinda and Bill Gates Foundation, per cercare di rendere, diciamo, commestibile un tubero a specifico interesse locale delle popolazioni di paesi in via di sviluppo. Fra l'altro, la lavorazione necessita anche di uso di acqua, che non è sempre facilmente reperibile in quei posti. Assolutamente sì, quello che bisogna fare è di pestare fino a farlo diventare farina questi tuberi, poi sciacquarli con acqua per rimuovere glucoside cianogenico, quindi siamo molto vicini al cianuro, come dire, che è facilmente rimovibile, diciamo, con tecniche semplici, ma che ha bisogno appunto di molta lavorazione, di vari giorni, di acqua che in quei posti è estremamente preziosa, altrimenti è tossica. E dal punto di vista tecnico ci sono delle difficoltà da superare? Ce ne sono, come al solito, sempre tante da superare. Per esempio, il fatto che le piante producano delle molecole così antinutrizionali come questa non è una sorpresa, anzi è un'abitudine, una costante delle piante che usano questo tipo di sostanze per proteggersi dall'attacco di parassiti. Lo fanno le patate, lo fanno i fagioli. La cassava, che ha queste molecole così fastidiose o dannose o tossiche, modificata geneticamente potrebbe, proprio per abbattere questi nutrienti, potrebbe causare una sensibilità elevata ai parassiti, che potrebbero trovare una cassava detossificata e quindi estremamente più appetitosa, aggredibile anche per loro. E quindi potrebbe essere attaccata alle colture. Quindi, fatta la modifica genetica, poi bisogna vedere che funzioni. C'è un altro progetto importante che vuole venire incontro alle necessità del terzo mondo e riguarda la cosiddetta vigna sinensis, che poi è il fagiolo dell'occhio, cioè quel fagiolo bianco con una macchiolina scura al centro. Perché è una coltura importante questa nel terzo mondo? È una coltura, secondo me, addirittura centrale, è come un maiale per i paesi sviluppati. Per prima cosa, tutte le leguminose sono estremamente importanti perché sono una grandissima sorgente di proteine per la dieta umana, e dove non ci sono proteine da animali, da allevamento, da mucche o da maiali, avere proteine vegetali dai legumi è fondamentale. Inoltre, tutti i legumi sono capaci di prendere azoto dall'atmosfera e fissarlo e renderlo commestibile dalle altre piante. Quindi vigna non solo serve in quanto tale a produrre semi che poi vengono consumati, ma serve anche per rilasciare nel terreno azoto che si dice fissato, quindi un fertilizzante azotato, che permette la crescita a cereali. Quindi vengono coltivati cosiddetti in interfila, quindi una fila di un cereale, una fila di vigna, e il cereale cresce meglio perché vigna gli dà un po' di azoto e quindi viene usato per migliorare la coltivazione del sorgo, del miglio, per esempio. Considerando quindi, che non è possibile fare uso di fertilizzanti di sintesi perché sono troppo, diciamo, costosi. In questo tipo di agricolture non si può pensare alla chimica, non ci sono i fondi per pensare alla chimica, quindi si usano i vecchi sistemi. Il problema è che vigna viene attaccata da una splendida farfallina che si chiama Maruca vitrata, che nonostante il nome leggiadro è capace di distruggere fino all'80% dei raccolti di viso luogo. Ma quanto sono costosi questi esperimenti per produrre OGM? Alla fine un paese povero riesce a permetterseli? Un paese povero se li può permettere, soprattutto in questo scenario di collaborazione. Ovviamente credo che per prima cosa questo è un compito per la ricerca pubblica, non per la ricerca privata, e quello che i paesi sviluppati dovrebbero garantire contemporaneamente è di seguire tutte le validazioni anche di sicurezza alimentare derivante dalla produzione di questo tipo di alimenti proprio per tenerli ai massimi standard internazionali possibili. Tutto quello che avevamo da raccontarvi con questa puntata di Möbius ve l'abbiamo detto. Buona serata a tutti e a tutte. Ci sentiamo fra 7 giorni.